stai vicino, col tuo calore accendi il camino. Con il tuo cuore profondo, fa che l'amore diventi il mio mondo. Fa che la luce mi segni il cammino, e un angelo mi stia vicino. Quando mi arrabbio e sto male, perdonami e fammi capire. Dammi un minuto di grande silenzio, così che io possa pensare. A volte fa male scavare in queste memorie, si può naufragare. Facciamo l'amore, perché fra noi non occorre parlare. Di te ora voglio essere fiero, con il tuo aiuto sarò un uomo vero. Fa che le lacrime scendano fino a bagnare quei fogli ingialliti, dove tutte le donne che ho avuto ormai sono solo ricordi vissuti. Amica, non perderti, stammi vicino, andremo per mille sentieri, tra gli sbagli di ieri, tra gli sbagli di ieri. Ora voglio essere degno, sarai regina nel mio piccolo regno. E per quanto il mio mondo sia piccolo, c'è una luce che parte dal cuore. Ora conosco la strada, resta con me, non avere paura. Saprò fra la notte ed il giorno guidare la nave nel suo ritorno. Amica di sempre, non c'è più bufera che possa tenerci lontani, se uniamo le mani, se uniamo le mani.